Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci sono già stati in Europa dei cluster, l'abbiamo visto in Germania con 16 casi sostanzialmente tutti attorno a una stessa realtà aziendale, l'abbiamo visto in Francia, in Alta Savoia, dove attorno ad una scuola c'è stato esattamente una serie di casi che si sono succeduti, ora lo vediamo anche in Italia. L'Italia è pronta, noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere, ora si tratta di attuare nel modo più efficace possibile il piano che avevamo predisposto. Queste le parole, care ascoltatrici e cari ascoltatori, del Ministro della Salute Speranza in conferenza stampa oggi, dopo che si sono registrati i primi casi di cittadini italiani che sono stati contagiati dal coronavirus senza essere stati in Cina, e sono per lo più in Lombardia e due in Veneto. Speranza, l'avete sentito, ha detto l'Italia è pronta, perché più volte lo ha anche ripetuto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi in Europa e anche a livello mondiale insomma siamo tra i primi per adeguatezza di misure di prevenzione per il coronavirus. Poi naturalmente tutti i virologi che sono stati qui a Effetto Notte, tutti hanno detto che era inevitabile che qualche caso si presentasse anche in Italia, non è che abbiamo i muri diciamo intorno al nostro paese come perimetro. Ne parleremo naturalmente con diversi ospiti, tra cui il professor Giovanni Rezza, che è il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi ci collegheremo anche con i sindaci di alcuni di questi comuni che sono praticamente totalmente in quarantena. Già c'è stata la polemica politica, il leader della Lega Salvini ha detto: se Conte non è in grado di difendere l'Italia e gli italiani, si faccia da parte. Quindi poi ci concentreremo anche sulla politica, non solo legata alla questione coronavirus, ma anche sempre alle tensioni all'interno della maggioranza. Bene, allora direi di partire tra pochissimo, perché sono tante le cose da raccontare. Se le volete commentare, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare al numero 349-238-6666. 349-238-6666. Durante il giorno, ricordatelo, per varie anticipazioni esclusive certe volte, eccetera, eccetera, c'è il Twitter Roby con la Y, linetta bassa Giordano. Partiamo. Coronavirus, sono 16 in Italia con nazionali contagiati, 14 in Lombardia, tra cui 5 operatori sanitari e 2 in Veneto. Il ministro Speranza assicura che l'Italia è pronta, ospite di Effetto Notte il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. I contrasti nel governo, Renzi avverte Conte: se le nostre proposte saranno respinte, pronti a fare un passo indietro. Crisi Air Italy, la ministra De Micheli firma il rinnovo della continuità territoriale dei voli per la Sardegna. Calcio in campo per la Serie A maschile, Brescia-Napoli, e negli Stati Uniti, dove il calcio è donna, le calciatrici reclamano la parità di stipendio con gli uomini. Partiamo quindi dall'evolversi dell'epidemia di coronavirus, con i primi italiani contagiati senza essere stati in Cina. Sale a 16 il numero di casi di coronavirus in Italia, per ora tutti al nord, 14 in Lombardia, nell'Odigiano, e 2 in Veneto, pensionati settantenni di Vo Euganeo in provincia di Padova. Uno dei due in condizioni critiche. In Lombardia il caso invece è soprattutto quello di un 38enne di Codogno, che nelle settimane scorse era andato a cena con un collega tornato dalla Cina che lavora per un'azienda di Fiorenzuola d'Arda, ora in isolamento al Sacco di Milano, che però è negativo a un primo test. Contagiati anche la moglie incinta e in maternità e un amico che ha fatto sport con lui, figlio del titolare di un bar di Codogno. Altri 3 contagiati sono clienti dello stesso bar. Degli altri 8 casi lombardi, 5 sono infermieri e medici dell'ospedale di Codogno e 3 pazienti. Polemica sulle misure e sulla quarantena, avete sentito, con Salvini che attacca Conte e dice: o ci protegge o si dimette, bisogna blindare i confini. E poi il ministro della Salute e Speranza, lo avete sentito, che assicura, dice, pronto un piano per circoscrivere il contagio. Dopo i nuovi casi di coronavirus nell'Odigiano, il Ministero della Salute rafforza le misure di prevenzione anche a livello nazionale. Con un'ordinanza è stata disposta una quarantena fiduciaria domiciliare per chiunque sia tornato dalle zone a rischio della Cina negli ultimi 14 giorni, con l'obbligo di comunicare il proprio rientro alle autorità sanitarie locali. I controlli messi in atto nel nostro paese sono ai massimi livelli, assicura il Premier Conte. Abbiamo adottato una linea di massima prudenza, massima precauzione. Questo però ci consente anche di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale, qualsiasi panico. Ad attivarsi nelle ultime ore è stato anche il Ministero della Difesa, che sta valutando la possibilità di mettere a disposizione caserme e strutture militari in Lombardia per ospitare, se necessario, le persone messe in quarantena. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani ci sarà una riunione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con i ministri africani per le preoccupazioni dell'OMS rispetto a un sistema sanitario debole. E la psicosi da coronavirus non risparmia neanche l'Ucraina. Una folla inferocita ha attaccato ieri sera i pullman con a bordo 72 persone evacuate dalla città cinese di Wuhan, focolaio dell'epidemia, e dirette in un centro medico a Novi Shanzari per un periodo di quarantena di 14 giorni. Dopo aver bloccato la strada che conduce alla clinica, aver incendiato pneumatici ed essersi scontrati con la polizia, i manifestanti hanno lanciato dei sassi contro i pullman, mandando in frantumi almeno un finestrino. Una violenza gratuita che il presidente ucraino Zelensky ha condannato fermamente e definito, tenendola giustamente roba da medioevo. Continuiamo a dire che l'Ucraina è Europa, ha dichiarato il capo dello Stato, ma purtroppo ieri ci siamo comportati come nell'Europa medievale. E vi dicevo, su tutto questo argomento, il coronavirus, ci saranno diversi ospiti, a cominciare dal professor Rezza e poi i sindaci e la nostra inviata sul posto. Passiamo alla politica, tensioni di governo con incontro in vista tra il presidente del Consiglio e Conte e Matteo Renzi, di cui parleremo poi nel corso di questa puntata, perché torneremo sulla telenovela politica, come l'ha definita lo stesso Renzi. Intanto la ministra dei trasporti De Micheli ha firmato la proroga per la continuità territoriale dei voli da e per la Sardegna. Arriva la proroga sino a dicembre per la continuità territoriale aerea della Sardegna, ossia lo strumento che consente alle compagnie di garantire tariffe calmierate in cambio di compensazioni economiche pubbliche. La ministra dei trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto di proroga al 31 dicembre 2020 dei voli in continuità territoriale in scadenza il 16 aprile prossimo. Le tratte sono quelle che collegano Cagliari, Alghero e Olbia con Roma e Milano. Mentre su Cagliari e Alghero non dovrebbero esserci difficoltà, la situazione è differente a Olbia, dove Air Italy, oggi in liquidazione, aveva accettato di volare senza aiuti pubblici. In questo caso dovrà esserci un affidamento con procedura di emergenza. Alitalia si è detta pronta al subentro, ma potrebbe farsi avanti anche qualche altro vettore con i requisiti per garantire il servizio. Sul fronte Air Italy, la compagnia sardo-catariota in liquidazione dall'11 febbraio, resta alta la preoccupazione dei lavoratori. Qatar Airways, con una nota, ha assicurato che farà tutto il possibile nel proprio ruolo di azionista di minoranza per minimizzare l'impatto sociale per i lavoratori e per i viaggiatori. Sembra tramontare una eventuale partecipazione dei catarioti in una newco con la regione Sardegna. Una situazione in costante evoluzione che però non tranquillizza i 1450 dipendenti distribuiti tra Olbia e Malpensa, costretti a convivere con la paura dei licenziamenti. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. E ora all'estero, da domani per una settimana in Afghanistan entrerà in vigore una sorta di riduzione della violenza, frutto dei duri negoziati in Qatar tra i talebani afghani e gli Stati Uniti. Lo annuncia il governo di Kabul. Se la riduzione della violenza, qualcosa di meno di una tregua vera e propria, diventerà effettiva, dovrebbe aprire le porte a un accordo per un ritiro delle truppe americane dal territorio afghano in cambio di garanzie sulla sicurezza da parte dei talebani. Stati Uniti e talebani il 29 febbraio firmeranno l'accordo di pace per l'Afghanistan, un accordo che pone fine a 19 anni di guerra. Lo ha annunciato oggi con una nota ufficiale il segretario di Stato Mike Pompeo. Anche i talebani confermano l'intesa. Come premessa della fine delle ostilità, a partire da stasera le forze della coalizione internazionale e i talebani hanno accettato di avviare una riduzione delle violenze di una settimana in vista di una tregua generale che dovrebbe arrivare dopo l'accordo di pace. L'accordo prevede la riduzione della presenza americana nella regione, uno degli obiettivi dell'amministrazione Trump. Ma nel paese, dopo 19 anni di guerra, la più lunga per gli Stati Uniti, la situazione è tutt'altro che stabilizzata. Il governo afghano non ha il controllo di tutto il territorio, soprattutto nelle aree rurali ancora in mano alle forze talebane. I talebani non riconoscono il governo, ritenuto fantoccio del governo americano, ma hanno accettato di avviare una difficile coalizione per la transizione pacifica che includa tutte le forze del paese. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Le elezioni in Iran. Ognuno che abbia a cuore l'interesse nazionale deve prendere parte alle elezioni. Lo ha detto oggi la guida suprema iraniana, Khamenei, rinnovando l'appello agli elettori perché si rechino alle urne per il rinnovo del Parlamento. Khamenei, citato dall'agenzia IRNA, ha ribadito che il voto è anche un dovere religioso, oltre che un compimento dei diritti civili del popolo. Sono le prime elezioni dalla morte del generale Soleimani, ucciso in un attacco statunitense a inizio gennaio, e probabilmente saranno le elezioni con più alto astensionismo degli ultimi anni a causa dell'esclusione dalle liste elettorali di migliaia di candidati riformisti. Chiamati al voto dopo una campagna elettorale fiacca, gli iraniani dovranno eleggere 290 deputati del Parlamento e 7 membri dell'Assemblea degli Esperti. La questione di cui si è parlato di più nel paese nelle settimane precedenti le elezioni è il complicato processo di ammissione dei candidati gestito dal Consiglio dei Guardiani, organo molto legato alla parte più conservatrice del paese, questioni che hanno esacerbato la disaffezione verso la politica, incapace agli occhi della gente di affrontare i reali problemi che riguardano l'isolamento economico dovuto alle rinnovate sanzioni americane, l'inflazione, la svalutazione della moneta, la disoccupazione, persino la mancanza di medicinali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per alleggerire un po', parliamo di una particolare opportunità di lavoro, direi una opportunità spaziale, perché si parla di volontari che potranno aiutare gli astronauti a capire gli effetti della microgravità sul corpo, e per farlo dovranno restare sdraiati a letto per 2 mesi, con la testa leggermente inclinata all'indietro, immersi 5 giorni in una vasca con acqua tiepida, avvolti da un telo impermeabile. Sono appunto i volontari dei nuovi esperimenti dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, per simulare le condizioni di vita nello spazio. I volontari dovranno restare sdraiati per tutto il tempo degli esperimenti e saranno continuamente sottoposti a test sulla risposta a bassi livelli di ossigeno dell'ambiente esterno, sullo stato di salute dei muscoli e dell'apparato cardiovascolare. I test saranno condotti nell'Istituto di Medicina Spaziale MEDIS di Tolosa, nel Centro Aerospaziale Tedesco di Colonia e nell'Istituto Joseph Stefan di Planica in Slovenia. In uno dei test i volontari dovranno restare 60 giorni con la testa reclinata di circa 6 gradi, visto che nello spazio il sangue tende ad affluire verso la testa e non potranno alzarsi dal letto, ma restare distesi con almeno una spalla in contatto col materasso anche mentre mangiano e bevono. Insomma, si tratta di esperimenti, concludono gli studiosi, utili per le future missioni sulla Luna e oltre, ma anche sulla Terra, per tutti coloro che sono costretti a passare a letto lunghi periodi di tempo. Vedete voi se vi alletta particolarmente il caso di dire questa opportunità di lavoro. Per chiudere, sport, stop al calcio dilettantistico in Lombardia. Qui torniamo a parlare di coronavirus e la conseguenza dell'emergenza coronavirus dopo i primi casi appunto di italiani contagiati nell'Lodigiano. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 40 partite di diversi campionati, dall'eccellenza alle juniores femminili, a causa della criticità determinata dal coronavirus che ha coinvolto le zone appunto dell'Lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio. Sempre per il calcio, le giocatrici della nazionale di calcio americana puntano a ottenere 66 milioni di dollari di danni nell'ambito della loro azione legale contro la US Soccer Federation, e quanto emerge, riportano i media americani, da alcuni documenti depositati al tribunale di Los Angeles in vista dell'avvio del processo il prossimo 5 maggio. Le calciatrici hanno fatto causa alla federazione nel marzo 2019, accusandola di aver istituzionalizzato una discriminazione nei compensi fra le squadre maschili e quelle femminili. Intanto, effettivamente, sono stati pagati molto più i giocatori della nazionale maschile americana, seppure meno importante in America di quella femminile. Non si sono qualificati ai mondiali, ma sono stati pagati più delle donne che hanno vinto i mondiali lo scorso anno. E poi, per aggiornare invece sulla Serie A maschile, in corso la partita Brescia-Napoli, vediamo che punto è. Un gol del Brescia, 1-0 per il Brescia al momento. Bene, ci possiamo lasciare a questo punto, ma brevemente, aggiorniamo chi sta viaggiando, poi insieme cominciamo allora ad addentrarci dentro gli sviluppi legati al coronavirus. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda Effetto Note, ma puntualmente tra poco faremo il bilancio di questa giornata veramente intensa anche per l'Italia dal punto di vista degli sviluppi del coronavirus. Ci saranno diversi ospiti, voi potete fare anche le vostre domande, ma naturalmente per tempo, non quando sta finendo la trasmissione, al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Note. Vi ricordo che appunto i fatti principali della giornata riguardano questi primi casi in Italia di connazionali contagiati senza essere stati in Cina, e poi i contrasti nel governo di cui parleremo, Renzi che avverte Conte se le nostre proposte saranno respinte, pronti a fare un passo indietro, la crisi Air Italy con la ministra De Micheli che firma il rinnovo della continuità territoriale dei voli per la Sardegna, e poi il calcio, vi ho dato poco fa gli aggiornamenti. L'Italia è pronta. Noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere. Ora si tratta di attuare nel modo più efficace possibile il piano che avevamo predisposto. Oh, e questo appunto è il ministro della Salute e Speranza che ha rassicurato oggi in questa giornata particolare per l'Italia in conferenza stampa, anche fra gli altri con il presidente della regione Lombardia Fontana, con l'assessore welfare Gallera, con il capo della protezione civile, commissario all'emergenza Borrelli, ha rassicurato dicendo ci sono questi casi, però l'Italia è pronta da tempo, come ha ribadito più volte l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, quindi la situazione comincia un po' a complicarsi anche per noi dal nostro punto di vista. Come italiani naturalmente, perché appunto ci sono i primi casi di italiani infettati dal Covid-19 che però non sono stati in Cina, almeno non loro direttamente. E però sottolineiamo subito una cosa, prima di evitiamo ogni equivoco, cioè tutti i virologi che si sono alternati qui a Effetto Note in tutte queste settimane, da Ilaria Capua ieri, scienziata a livello internazionale, al professor Pregliasco, a Vespignani, anche lui dagli Stati Uniti, al professor Rezza che ci sarà questa sera, Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano, il professor Ippolito dello Spallanzani di Roma, non voglio dimenticare nessuno, ma insomma nessuno ha escluso che ci potessero essere dei casi in Italia, anzi tutti hanno detto prima o poi arriverà anche in Italia, però l'Italia almeno sappiamo che è pronta a gestire l'emergenza, quindi non dobbiamo stupirci di questo. Era piuttosto inevitabile. E però questa mattina allora i primi casi in Lombardia sono stati in tre paesi che fanno parte dell'Odigiano, della provincia di Lodi, che sono Codogno, Casal Pusterlengo e Castiglione d'Adda. Nel pomeriggio poi sono emersi due casi in Veneto, quindi in totale sono 14 casi positivi al coronavirus in Lombardia, con gli 8 segnalati poi nella conferenza stampa della regione, tra i quali ci sono 5 medici. A questi si devono aggiungere, come dicevo, due casi in Veneto risultati positivi ai primi test, che sarebbero due pensionati settantenni di Vo Euganeo ricoverati a Padova. In Lombardia il caso più grave è quello di un 38enne di Codogno che lavora nella sede lodigiana della multinazionale Unilever a Casal Pusterlengo. Come potrebbe essersi infettato? Allora, si è un po' ricostruita la storia, ma non è ancora certificata. L'uomo avrebbe frequentato un collega, un manager rientrato dalla Cina, che potrebbe essere il portatore del coronavirus nell'Odigiano, e che però poi lui è ricoverato al Sacco per accertamenti, è risultato negativo ai test del virus. Era tornato in Italia con un volo dalla China Airlines il 21 gennaio scorso e tra l'1 e l'8 febbraio avrebbe accusato i sintomi influenzali. Proprio in quel periodo aveva frequentato il 38enne che viene definito il podista perché è abituato anche a fare gare di corsa, e quindi adesso un po' tutti gli ambienti che ha frequentato vengono monitorati. Anche la moglie incinta del 38enne risulta positiva e altre 4 persone che frequentavano lo stesso bar del padre del 38enne. E a questo punto quindi questa situazione ha portato a un obbligo di permanenza domiciliare in 3 comuni lodigiani, però ci sono delle ordinanze che riguardano ben 10 comuni. Prima di sentire il sindaco di Codogno c'è la nostra Raffaella Calandra, inviata, che è proprio a Codogno. Anche tu sei, Raffaella, vero? Sei rientrata Raffaella. Allora, che situazione hai trovato, visto che è stato chiesto alle persone insomma di non uscire in via precauzionale e poi man mano nei giorni insomma si faranno delle verifiche? Beh, che con il passare del tempo progressivamente diminuivano le persone in giro per Codogno. Quando sono arrivata, attraversando anche gli altri paesi che sono tutti appunto in quest'area che adesso è un po' il cuore del contagio lombardo, in realtà c'era il solito traffico del venerdì e anche diciamo molte persone in circolazione. Col passare delle ore nel centro soprattutto di Codogno era evidente come quello fosse diventato un paese quasi in coprifuoco, con pochissime persone in giro, con i negozi chiusi, con i ristoranti e bar che avevano attaccato alle vetrine l'ordinanza del sindaco con l'obbligo appunto di chiusura, e le uniche persone che davvero si incontravano nella piazza del mercato ad esempio erano i proprietari dei cani, che quindi erano più o meno obbligati costretti a portarli fuori ad uscire. Raffaella, fermati un attimo, visto che citavi l'ordinanza del sindaco e ce l'abbiamo in collegamento, sindaco Francesco Passerini, buonasera. Buonasera. Grazie della disponibilità, perché ovviamente non è un momento facile per lei e per la sua città. Sono 15.000 abitanti più o meno a Codogno? Sì, 16.000. Quindi le misure che lei ha preso, giustamente come anche negli altri comuni, è stato quello di chiudere locali pubblici, scuole. Diciamo che da subito, innanzitutto grazie per l'attenzione, sicuramente da subito è stata valutata insieme a quelli che erano i vertici sanitari, diciamo che diciamo intorno a mezzanotte di ieri, quindi diciamo che la lunga giornata dopo inizia a mezzanotte di ieri sera, quando c'è stato appunto segnalato questa presenza presso il pronto soccorso da lì, e posso confermare quella che è stata un protocollo che è partito immediatamente nel momento stesso che è stato, e anche c'era stato comunque il dubbio che un paziente potesse aver contratto questo virus. E da lì sono partite appunto tutta una serie di procedure, proprio in collaborazione con il SACO, con ATS, con la SST, che hanno consentito comunque di isolare immediatamente il pronto soccorso, e da subito ci siamo preoccupati appunto di non creare assembramenti. Poi, lavorando insieme a Regione Lombardia, anche al Ministero che era presente oggi a Milano, si è ragionato sul fatto di utilizzare uno strumento che potesse essere efficace, quindi l'asticella l'abbiamo messa molto alta, ma perché vogliamo veramente tutti insieme limitare quello che è lo sviluppo di questo focolaio e distruggerlo il prima possibile, e sicuramente questo è uno dei metodi che ha dimostrato in altre parti di essere funzionante, quindi di contenere l'epidemia. Passerini, quindi i prossimi giorni, ricordo che lei tra l'altro è anche presidente della provincia di Lodi, no? Passerini, sì. Nei prossimi giorni quindi che cosa potranno fare i cittadini di Codogno? Allora, l'invito ovviamente è quello di stare in casa, ci sarà un'inibizione totale di tutte quelle che sono le attività sportive, ludico-recreative, le aperture delle attività commerciali, ci sarà anche una limitazione dell'attività lavorativa. Proprio perché bisogna limitare il più possibile quelli che sono gli spostamenti e gli assembramenti dentro i comuni identificati da questa corona, da questo confine, tra virgolette, chiamiamolo così, anche se non è proprio la parola corretta, però. I suoi concittadini, per ora, un po' ce lo raccontava anche la nostra inviata, ma come hanno reagito, come stanno reagendo? Certo, sono le prime ore di queste misure. Sicuramente credo che sia stata capita che la volontà delle amministrazioni comunali, perché comunque c'è stata una piena condivisione su quello che era la volontà, tra virgolette, di assumersi anche le responsabilità che un sindaco penso che si debba assumere in qualità di dover tutelare al massimo la salute dei propri cittadini. Chiaro che sono ordinanze pesanti che vanno a inibire, però il bene che vogliamo perseguire, che penso che sia il bene più importante che abbiamo, è proprio quello della salute. Quindi è chiaro che qualcos'altro verrà limitato adesso, speriamo il minor tempo possibile, però sono assolutamente atti che convintamente, in accordo sia con Regione che con appunto lo stesso Ministero, abbiamo deciso di intraprendere per cercare di limitare il più possibile, di stirparla questo terribile virus sul nostro territorio e poi magari anche su tutto il territorio nazionale, ci mancherebbe. Sindaco Passerini, poi la lascio andare che so che ha molto lavoro sulle spalle, ma avete stabilito una data per arrivare insomma a quella scadenza intanto, oppure sine die questa chiusura dei locali pubblici, evitare appunto di essere, che ci siano assembramenti? Parlare di una data oggi è un po' troppo prematuro. Sicuramente quello che sappiamo è che mediamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che questo virus ha un'incubazione di 14 giorni. Quindi innanzitutto vediamo i prossimi giorni come si svilupperà, se ci saranno altre situazioni, se ci saranno altri casi. Insomma, è una situazione che va di volta in volta tornata, ecco, che è in evoluzione, in continua evoluzione. Quindi dire oggi quando finirà sarebbe bello, vorrei dirlo, ma purtroppo non abbiamo gli elementi oggi per dire tra 10 giorni, 5 giorni, 15 giorni, non ce l'abbiamo, quindi per adesso sicuramente fino a martedì è così, poi nel frattempo penso anche di più. Un'ultima cosa, Passerini, per i rifornimenti dei beni essenziali, se le persone appunto meglio che stiano a casa, infatti, siete organizzati? Ecco, gli unici abilitati sono i beni di prima necessità, o per dire quelle che possono essere le farmacie, i centri medici, i centri assistenziali, i centri di cura, quelli assolutamente continuano. Supermercati o negozi di beni alimentari? Allora, su quello c'è praticamente, ovviamente l'estensione vale per tutti. Il centro commerciale è un centro commerciale o i negozi di alimentari, perché hanno un'equiparazione similare per certo. Quello che è la norma di legge, sono considerati beni di prima necessità, quindi comunque per le piccole elementari magari problemi ce ne sono meno, ma dall'altra parte sul centro commerciale si ragionerà insieme alle forze dell'ordine per cercare di non creare assembramento, quindi bene che fornisca genere di prima necessità, di emergenza chiamiamoli, ma dall'altra parte non bisogna assolutamente che ci sia la possibilità che vengano creati assembramenti, gruppi o quant'altro, oppure troppa gente, perché lo scopo di questi atti è proprio quello di evitare, insomma. Grazie, esatto. Sindaco Francesco Passerini, la ringrazio moltissimo, le auguro buon lavoro, ci aggiorniamo magari nei prossimi giorni, sperando che le cose vadano per meglio. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, Raffaella, c'è il professor Rezza, se tu hai ancora pazienza rimani qualche attimo, se no ci sentiamo, lo sai che ci sentiamo anche dopo, nel corso della puntata. Raffaella. Come ritieni, Roberta? Se ci sentiamo dopo, allora... Sì, va bene. A dopo, allora. Ti lascio ai tuoi ospiti, a più tardi. Grazie. Grazie alla nostra inviata, Raffaella Calandra. Professor Giovanni Rezza, grazie ancora di essere qui in collegamento con Effetto Notte ancora una volta. Ricordo, virologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Rezza, insomma, le domande qui verrebbero in gran numero, quindi... La prego se riesce appunto a essere sintetico nelle risposte, perché ci sono tante domande da fare. Per esempio questa vicenda di che non è ancora chiara se sia stato effettivamente questo manager tornato dalla Cina che risulta negativo al test, che però in qualche modo, chissà come, se è negativo avrebbe contagiato questo podista che a sua volta poi ha contagiato altre persone. Sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi si è espressa con preoccupazione per i contagi, dice che non hanno dei legami certi, professor. No, guardi, in questo caso è un indizio che sia stata quella cena a causare il contagio e non è stato ancora provato, però il fatto che sia negativo oggi non vuol dire nulla, perché questa persona avrebbe avuto la febbre 10 giorni fa, per cui è chiaro che ormai si è negativizzata perché è completamente guarita. Professore, invece per quanto riguarda per esempio il fatto che lei oggi ha detto la priorità è trovare i focolai, e ho visto un altro studio, un altro esperto ha detto non agitiamoci, nel senso che non si può ancora parlare di un'epidemia in Italia se non ci sono tanti focolai separati in varie zone d'Italia. Come dobbiamo considerarla questa situazione al momento? C'è un focolaio che è quello di quella zona della Lombardia, che è abbastanza importante, anche se apparentemente in questo momento è contenuto. Teniamo anche conto che alcuni dei casi sono dovuti a una trasmissione a livello ospedaliero, in quanto chiaramente questo paziente, un paziente italiano che non era stato in Cina, non si poteva pensare che avesse effettivamente un'infezione da coronavirus. Dopodiché abbiamo un sospetto probabile, piccolo focolaio in Veneto, noi in Istituto Superiore di Sanità stasera faremo le conferme, e vedremo se lì c'è anche un piccolo grappolo di casi, come apparentemente è stato riportato. Certamente sono entrambi i focolai, soprattutto quello veneto molto limitato, quel lombardo di una certa importanza, ma per ora mi sembra ristretto ad alcuni comuni. Professore, ancora questa cosa invece, uno studio dimostrerebbe che la quantità di coronavirus presente nel naso e nella gola dei pazienti asintomatici, quindi senza sintomi, può raggiungere livelli paragonabili a quelli dei malati con sintomi, rendendoli potenzialmente infettivi, cioè come se fossero pieni nella gola e nel naso comunque di questo virus, anche se non hanno nessun sintomo, e quindi può essere rischioso. Questo è un studio cinese, certo, che è stato pubblicato poi al New England Journal of Medicine. Sì, io non ho mai escluso la possibilità che degli asintomatici o dei presintomatici, cioè persone che ancora non hanno i sintomi perché si trovano alla fine del periodo di incubazione, possano trasmettere l'infezione. Ma naturalmente quando si ha la tosse si espelle più saliva e automaticamente si trasmette di più. Quindi se è vero che non possiamo escludere che un asintomatico trasmetta l'infezione, è pur vero che nella maggior parte dei casi è la persona che abbia febbre e tosse che la trasmette. E poi sa che adesso naturalmente è anche scoppiata la polemica politica, c'è Salvini che critica il governo, se Conte non sa frenare l'epidemia, gestire l'epidemia, insomma va da casa, e tutti puntano un po' sul dito in tanti sull'Africa, anche l'OMS ha detto domani appunto questa riunione straordinaria d'emergenza con i ministri della sanità dell'Africa, perché naturalmente i sistemi sanitari deboli. Comunque si era detto che era inevitabile che arrivasse anche in Italia. Lei vede il rischio anche più grande di quello che è attualmente proprio per un continente, per esempio come quello africano? Io sono preoccupato da focolai che ci sono in giro nel mondo, ma soprattutto in questo momento in Estremo Oriente, in particolare in Giappone, in Corea del Sud, Malesia e Singapore, e in modo particolare in Iran, perché lì c'è un focolaio causato anche da lavoratori cinesi che erano arrivati in Iran di ritorno dalla Cina, e certo quella zona dell'Iran non mi sembra molto attrezzata per rispondere all'epidemia. Spero che l'OMS faccia qualche cosa per rafforzare, per supportare la risposta all'epidemia in quella zona. Poi c'è invece pubblicato sulla rivista Nature la comunità di scienziati che mettono sotto accusa la Cina, dicendo che tende a mascherare l'entità effettiva dell'epidemia per la decisione di escludere dalle statistiche gli individui asintomatici però positivi al virus. Le risulta, professore, questa cosa? Guardi, mi sembra che c'è un focolaio con talmente tanti casi in Hubei, che è la provincia di Wuhan, che c'è poco da nascondere. Mi sembra che assolutamente le dimensioni dell'epidemia stiano sotto gli occhi di tutti. Naturalmente la Cina adesso sta facendo un grande sforzo per contenere quel focolaio principale, e speriamo che ci riesca. Professore, dice un ascoltatore, ma con tutto quello che è stato discusso, perché i medici e gli infermieri si sono contagiati? Perché si trattava di, in questo caso, diciamo la verità, un paziente italiano che non è stato recentemente in Cina, sviluppa una febbre, perché questa polmonite grave sviluppata dopo qualche giorno, 5-6 giorni dall'inizio dei sintomi, sembra che abbia un'influenza, si presenta in ospedale. Naturalmente non è che in quel momento si pensa, la prima cosa che uno pensa, ecco, è arrivato qualcuno dalla Cina e c'è il coronavirus, no? È normale che arrivi un italiano da febbre e non si prendano chissà quali precauzioni. Adesso che lo sappiamo, ex post, possiamo dire che peccato, perché non è stato fatto, naturalmente. Ma mettiamoci nelle condizioni in cui è arrivato questo paziente, erano condizioni, diciamo, non gravi. Quei giorni non gravi. Non era solo in Cina, non riferiva evidentemente dei contatti con persone che provenivano da zone colpite dalla Cina, chiaramente non era possibile pensare, cioè, però non era probabile. E ci stiamo riferendo a questo podista 38enne appunto che sarebbe in gravi condizioni di codogno nell'Odigiano. Speriamo però che ce la faccia. Speriamo sì. Di supporto, speriamo sì. Certamente. Certo, e poi ultima domanda, perché so che lei è presissimo, si deve anche riposare. Professore, Alice da Bologna dice: non ho capito se esiste davvero una correlazione tra mortalità e pregresso stato di salute dei contagiati, cioè vuol dire se chi muore è perché era già, insomma, fragile, debole, compromesso nella salute. È chiaro che il rischio è maggiore per le persone anziane, molto anziane e con patologie concomitanti di base. Però purtroppo può capitare, come capita con molte malattie infettive, talvolta anche con l'influenza, che un giovane sano magari faccia una malattia grave. I motivi di questa particolare risposta dell'ospite purtroppo non sono noti. Grazie professor Giovanni Rezza, grazie molto, buon lavoro, grazie, buon voi. Riposo anche, a presto, grazie professore. E adesso ci prendiamo questa piccola pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, Roberta Giordano con voi, e solo qui potete trovare a fine giornata tutto quello che di importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Abbiamo parlato lungamente del coronavirus e degli sviluppi per quanto riguarda l'Italia, adesso è salito a 15 da 14 i casi accertati di coronavirus in Lombardia, il 15esimo non è comunque il medico di base che aveva visitato il 38enne di Codogno, ma ancora non è chiarito chi sia, insomma comunque siamo a 15 casi in Lombardia e 2 invece in Veneto. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, pagina Facebook di Effetto Notte, vedo tantissimi messaggi, tantissime domande, ma sapete che ogni giorno, tanto anche qui Effetto Notte si fa il punto, invito un virologo, per cui queste domande potete rifarle anche nei prossimi giorni. Se qualcuno non ha fatto, non fa o non farà tutto quello che è suo dovere fare per proteggere la salute nostra e dei nostri figli, ne risponderà davanti al popolo italiano. Adesso basta. Se Conte non è in grado di garantire la salute pubblica di chi vive in questo straordinario paese, si faccia da parte e lasci lavorare chi sa e chi ha voglia di lavorare per difendere l'Italia e gli italiani. Allora, Barbara Fiammeri, stasera la politica è molto ristretta perché sai, appunto con questi nuovi casi in Italia è la concentrazione soprattutto su quello. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Però io mi dico, ti pare che non poteva scoppiare la polemica su questo argomento? E mentre c'è questa situazione di emergenza in Italia, pur senza panico, mi raccomando, già ci hanno rassicurato i virologi, ci ha rassicurato anche il Ministro della Salute Speranza, ci sono le attrezzature, ci sono le misure adeguate, semplicemente il panico certamente non aiuta, però la politica anche a sua volta non aiuta, no? Tra Salvini che accusa il governo di non gestire l'emergenza, quando si sapeva che dei casi ci sarebbero comunque stati in Italia, e Renzi dall'altra parte che continua, no, con Conte a dire anche oggi, nonostante nei giorni scorsi fosse stato un pochino più tranquillo, avesse detto, mi ha detto che ci incontreremo la prossima settimana, chiariremo le tensioni nella maggioranza, però oggi torna alla carica e dice se ci vogliono eliminare dal governo lo dicano, e poi dice se il Premier riterrà di trovare un buon compromesso noi ci saremo, però deve accettare queste proposte di sbloccare i cantieri fermi, modifiche o abolizione del reddito di cittadinanza, giustizia giusta, cambiare le regole per eleggere il sindaco d'Italia. Insomma, diciamo che siamo in un momento di pressione da ogni punto di vista, forse sarebbe il caso in un momento come questo di unirsi e di gestire invece una situazione al momento prioritaria. Che sì, dici Barbara? Devo dire che alcune affermazioni, dichiarazioni sono proprio fuori luogo, anche perché sappiamo che per esempio ci sono 16 casi in Germania e la zona della Germania in cui questi casi si sono manifestati è stata isolata, come si sta facendo in Italia, 10 casi in Francia, stessa cosa. Quindi insomma, veramente trovo abbastanza brutto, devo dire la verità, brutto. Questa volta Salvini proprio secondo me ha avuto una caduta di stile proprio, tant'è che neanche la Meloni per esempio non l'ha fatto, cioè in questi momenti non si fa, anche perché è ovvio che rispetto a un fenomeno del genere, cioè accusare il governo, che peraltro il governo, devo dire in questo caso, se vi ricordate le settimane scorse la polemica con il Ministro della Sanità che aveva voluto la chiusura dei volti per la Cina, no? che ha anche provocato insomma un raffreddamento dei rapporti tra Italia e Cina. Cina, unico paese europeo che ha chiuso i voli verso la Cina. Quindi insomma, in questo caso è evidente che insomma, quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo e potrà avvenire è legato al fatto che i virus viaggiano con molta più facilità rispetto al passato, perché comunque tutti viaggiamo di più. In questo caso è arrivato perché sembra, perché poi bisogna accertarlo, ma comunque che lo spiegavamo infatti, Barbara, insomma, sì, una questione un po' complessa, ancora non chiara, vedremo, però mi raccomando, appunto, volevo questa tua lettura insomma della situazione politica in questo momento. Avremo modo la prossima settimana di tornarci. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Grazie molte Barbara. Come sarà l'auto del futuro? Avrà fari che sembrano i denti di un leone. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così. Ma non si sente nulla. Esattamente. Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208. A febbraio da 139 euro al mese. TAN 4,99, TAG 6,88. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Info su Peugeot.it. Scopri la benzina, diesel o elettrica. Anche domenica. Peugeot. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora con le notizie, in particolare la notizia di oggi, di cui abbiamo parlato ampiamente, appunto questi primi casi di cittadini italiani contagiati, che appunto ancora non è chiarissimo da dove, quale sia stata l'origine di questo contagio. Ci ricolleghiamo nuovamente con la nostra inviata Raffaella Calandra, che è stata a Codogno e ci stava descrivendo prima anche la situazione, così come il sindaco, e poi abbiamo parlato anche con il professor Rezza. Raffaella. Eccoci Roberta, sì, il quadro diciamo l'ha confermato da un punto di vista normativo anche proprio il sindaco, è questa sensazione di coprifuoco che per noi è del tutto nuova, che è l'aspetto prevalente attraversando Codogno, quando progressivamente col passare delle ore, perché la notizia è di ieri notte, quella del contagio, ma poi per tutta la giornata, all'inizio sembrava questa, oggi le attività erano riprese più o meno come nella norma, nella piazza del mercato, i negozianti, i venditori hanno detto che c'era meno gente, ma comunque tutto era grosso modo nella norma. È stato più o meno da metà pomeriggio che la situazione è progressivamente cambiata, insieme alla consapevolezza diffusa dalla conferenza stampa che c'è stata in prefettura dell'entità anche del problema esistente, che è partito proprio da Codogno. Quindi allora già tutte le misure prese dal sindaco avevano trovato effetto, quindi questi io stessa ho visto una serie di ristoratori che chiudere le loro porte, in molte vetrine era appesa il testo dell'ordinanza con il divieto, come appunto ci diceva il sindaco, esatto, e progressivamente Codogno è diventata una città sempre più vuota di persone, ma anche isolata, perché ad esempio le ferrovie Trenord hanno soppresso la fermata di Codogno e quella anche di altri due comuni limitrofi, Maleo e Casalla Pusterlengo. Tra l'altro, scusa Raffaella, questa ordinanza vale adesso per 10 comuni lì, tutti intorno? Ogni sindaco ha emesso questa ordinanza, che sono più o meno analoghe, per tutti quanti questi 10 comuni. Stiamo parlando di un'area che riguarda circa 50.000 persone, Codogno circa 15.000, ma è un'area anche molto produttiva, è un'area diciamo di intensa attività anche professionale, e questo sarà poi il tema dei prossimi giorni, a cominciare proprio da quello stabilimento Unilever di Casal Pusterlengo, dove oggi 120 dipendenti sono stati a lungo bloccati nello stabilimento, perché sono i colleghi del famoso ormai 38enne contagiato, e quindi sono rimasti bloccati lì in attesa dei risultati del tampone, ecco, che hanno fatto. Quindi è una situazione, devo dire, molto in divenire, molto chiaro, anomala, però ecco, non ho visto scene panico, di panico. Speriamo che anche proseguano anche nei prossimi giorni questa tranquillità. Tra l'altro qualcuno dice, a proposito della polemica di Salvini, ma non ricordate che i governatori del nord, che cosa avevano detto? Avevano chiesto il controllo tassativo di chiunque venisse dalla Cina, eccetera. È una cosa che si sta facendo. Poi può sfuggire quel caso, perché tra l'altro questo manager di cui si parla, che sarebbe all'origine di questo contagio, come abbiamo detto, è poi risultato negativo in realtà al test, quindi non è stato neanche uno che ha avuto i sintomi forti, è andato in ospedale, no. Quindi difficile dire ancora, e naturalmente poi si cercherà di capire nei prossimi giorni. Raffaella, credo che ci possiamo salutare, volevi aggiungere qualcosa? Ma no, più o meno adesso ovviamente bisognerà capire come evolverà la situazione, sia da un punto di vista di vita quotidiana per le popolazioni che comunque hanno questo invito, che non è un ordine tassativo ma è un invito a restare nelle proprie case, che campeggiava oggi anche nelle scritte di ingresso per esempio a Casal Pusterlengo. Quindi ci sarà una quotidianità in qualche modo da riorganizzare, cioè chi oggi ha fatto le scorte anche ai supermercati, chi si è fatto portare il cibo a casa, però sicuramente, diciamo, come ci ricordava anche il sindaco, sono da evitare tutte le forme di assembramento appunto di persone. Grazie Raffaella Calandra, ciao, ciao Raffaella. Roberta, ciao. Ciao Raffaella. Tra l'altro domani scuole anche chiuse a Piacenza, insomma vicino alla Bassa Lodigiana, e stop a calcio e basket a Piacenza. Adesso man mano vengono fuori le misure, però alleggeriamoci, speriamo, con le buone previsioni del nostro Paolo Corazzone di Trebimeteo. Buone previsioni? Buone. Ma sì Roberta, buonasera a tutti. Dai, qualcosa di positivo lo porto io stasera, perché vi parlo di una weekend davvero splendido, weekend primaverile, forse anche fin troppo bello, nel senso che è uno dei grandi problemi meteorologici che stiamo vivendo, la mancanza di piogge. Però fatto sta che non ci possiamo fare niente, quindi godiamoci questo weekend che sarà davvero primaverile in tutta Italia, temperature oltre i 15 gradi, spesso vicine anche ai 20, solo domenica in Liguria e in Toscana qualche nuvola in più, ma senza grandi conseguenze. Quindi davvero un po' in tutta Italia, weekend anche di carnevale, quindi potremo goderselo alla grande, senza grossi problemi. Almeno chiudiamo con una buona notizia, grazie al nostro Paolo Corazzone di Trebimeteo, buon tempo a te comunque sia. Ciao caro buon Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Ratta con la Folgore, ritorno alle 22.